Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ciao Chiara, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno. Ai noi, sì, ciao a tutti, ciao Federico. Però parliamo di un tema bellissimo, la scienza della pasticceria, come farcire Pandoro e Panettone. Con continuità parleremo anche di questioni alimentari, perché ci sono arrivate delle domande da voi. E sempre dagli ascoltatori arriva una domanda sull'aspirapolvere. Da lì partiamo per entrare nel magico mondo degli elettrodomestici. Allora iniziamo. Come se non bastassero tutti i dolci che ci siamo mangiati in questi giorni, io sono qui circondato da pasticcioni, no? Si dice pasticceri. Da pasticceri, sì. Da pasticceri. Anzi, scienziati pasticceri. Sì. È uno dei miei argomenti preferiti, esatto, tu lo sai. Perché forse voi non lo sapete, ma la mia collega una Chiara è una, un'abile pasticciona, nonché cucinatrice. Ma abbiamo il nostro ospite che è ancora più pasticcione. Dario Bressanini, ciao, buone feste anche a te Dario. Ciao a voi, buone feste. Ciao Dario. Allora, ti abbiamo chiamato perché hai appena scritto un libro, a mio avviso, meraviglioso, La scienza della pasticceria, La chimica del bignè, in cui spieghi le basi della pasticceria italiana, con tutti i segreti ovviamente che stanno dietro, tutta la scienza che ci sta dietro. Poi insomma adesso ti daremo ampio spazio per raccontarcelo. Edizioni Gribaudo, quindi si trova in libreria proprio in questo periodo. Abbiamo ancora una settimana di feste, quindi direi di partire. Allora, intanto, vabbè, nel libro analizzi ovviamente tutti quelli che sono gli ingredienti base: zuccheri, uova, latte, burro e così via. Io direi andiamo nelle preparazioni che possono essere utilizzate anche dagli ascoltatori e da me nei prossimi giorni per il cenone. Quindi, se io ti dico, non so, mascarpone oppure crema pasticcera, tu cosa ci dici? Quanta scienza c'è dietro? Mascarpone è pericolosissimo. Ma no, vero Dario? Beh, insomma, il mascarpone è molto grasso, però diciamo, ci sta sotto Natale concedersi qualche deviazione da una dieta rigorosa, però insomma sotto le feste si sa che si sgarra un po' e poi si recupera. Il mascarpone, che è si utilizza per una infinita varietà di creme, soprattutto da mettere sul panettone. Il mascarpone è una delle ricette che ho voluto inserire, analizzata scientificamente, però vorrei tranquillizzare gli ascoltatori che non ci sono formule chimiche o cose molto complicate. Ho cercato di tradurre, come faccio spesso, diciamo, le informazioni scientifiche in maniera fruibile da tutti. Il mascarpone l'ho messo come ricetta perché diciamo, è facilissimo da fare a casa e non lo fa nessuno. È una di quelle ricette che raramente si trova anche riprodotta in libri più classici di pasticceria. Si compra già fatto. È facile, sì, si compra già fatto, però secondo me un po' c'è diciamo, il piacere di fare le cose da soli, che diciamo, in pasticceria e in cucina è fondamentale, perché altrimenti la gente sotto Natale si mette a fare panettoni, per esempio, in casa, che è effettivamente una cosa molto difficile, perché c'è un po' il piacere. E poi l'idea di fare una cosa proprio fresca al momento, perché quello che noi compriamo diciamo, ai supermercati confezionati è diciamo molto standardizzato ed è stato preparato molto in anticipo. Cioè, il sapore del fresco, del fatto al momento, è chiaramente inarrivabile. E il mascarpone è facilissimo perché come ingredienti si usa della panna fresca, che si può comprare in qualsiasi supermercato, eventualmente del latte, poi spiego nel libro la ricetta. Si fa scaldare della panna, ma a temperature sotto quelle di ebollizione, poi si usa un acido, si acidifica, se uno non vuole avere diciamo, retrogusti di tipo particolare usa l'acido citrico che si trova normalmente anche insomma, in farmacia, altrimenti del succo di limone. E poi con un filtro, avendo un bel po' di pazienza, perché per filtrare il mascarpone serve una nottata in frigorifero, però la mattina uno ha del mascarpone freschissimo che sa di panna fresca e poi può usarlo per tutte le preparazioni che vuole. Chimicamente Dario, che cos'è? Come lo definiamo il mascarpone? Allora, il mascarpone è sostanzialmente è un gel. Noi siamo abituati a parlare di gelatina e l'associamo alla colla di pesce. In realtà il termine corretto scientifico è un gel. Cioè, quando abbiamo delle proteine, in questo caso sono le proteine del siero che sono presenti nella panna e nel latte, che si denaturano, cioè si srotolano un po' dalla loro forma e cominciano a legarsi tra di loro intrappolando quello che c'è dentro. In una gelatina normale che facciamo solitamente si intrappola l'acqua, qui si intrappola tutta la panna, una parte del più liquida del siero va via, e però si intrappolano tutte le le proteine, la caseina, i grassi, soprattutto perché il mascarpone è al 50% grassi. Quindi possiamo immaginare il mascarpone come una panna diciamo concentrata semisolida. E sono proprio le proteine del siero che sono le stesse, tra l'altro, che utilizziamo implicitamente quando facciamo il cappuccino la mattina, la schiuma, sono le proteine del siero che vengono denaturate dal vapore caldo e in quel caso intrappolano l'aria nel cappuccino. Ecco, nel mascarpone queste proteine che si denaturano intrappolano i grassi e la caseina presente. Quindi questa è la struttura del mascarpone, molto semplice. Tu consigli anche di farsi in casa, anche questa potrebbe andare nel panettone. Ecco, dal punto di vista chimico, la crema pasticcera, cosa ci puoi dire? La crema pasticcera è una di quelle creme che insomma si fanno a base di uova. È molto facile da fare in casa. Il trucco, diciamo, quello che gelifica, che forma questa consistenza un po' solida, è l'amido. Alcune creme pasticcere tradizionali richiedono la farina, modernamente si preferisce utilizzare l'amido. Infatti perché tu qua la chiami crema pasticcera veloce e suggerisci, esatto, di mettere l'amido al posto della farina. Esatto, perché nella ricetta classica, come quella che riporto dell'Artusi, in alcune poi riportate dall'Artusi, si usa della farina. La farina però bisogna essere un po' cotta, altrimenti ha un sapore che non è proprio gradevolissimo. E invece con l'amido si fa credo di aver riportato la ricetta, che non l'ho inventata io, ma l'ha inventata un chimico, quindi io mi sono sentito in dovere di utilizzarla. È delicissima, perché si prepara una pastella con dell'amido, un po' di latte e le uova. Separatamente si porta all'ebollizione il latte, un litro di latte, quando è all'ebollizione lo si versa sulla pastella, si mescola un po' con una frusta e la crema pasticcera è fatta, quindi c'è più bisogno di riportarla sul fuoco. E la magia chimica sta nelle misure, bisogna misurare esattamente gli ingredienti con una bilancia, che però adesso è abbastanza diffusa nelle cucine. Quindi se uno riesce a fare le misure, riesce a fare una crema pasticcera velocissima, che poi può utilizzare insieme magari al mascarpone e ad altre cose per decorare o guarnire un panettone. Ecco, senti, ma dal punto di vista fisico-chimico, nel mondo appunto dei pasticcioni, cos'è la roba più complicata? Più complessa? Adesso magari al volo non ti forse viene. Forse la lievitazione, che no? Cos'è? No, allora, ci sono delle cose complesse. Infatti questo libro è il primo libro di pasticceria che ho fatto, mi limito alle basi. Una cosa molto difficile da trattare se non si conoscono le proprietà è il cioccolato. Quello di sicuro è un argomento avanzato, perché il cioccolato bisogna avere il controllo esatto delle temperature, altrimenti non riusciamo banalmente neanche a fare, non so, le arance candite o le arance, insomma, le scorze d'arance candite ricoperte di cioccolato. È importante che il cioccolato sia bello lucido, non sia pastoso. Quando prendiamo in mano il cioccolato, se è stato trattato in modo non corretto, lasciamo le impronte, si scioglie subito. Invece abbiamo bisogno del cioccolato lucido, duro, croccante. Ecco, per fare questo è necessario fare un processo che si chiama il processo di temperaggio, per cui è piuttosto avanzato, ma si può fare a casa con un termometro digitale. Bisogna sciogliere il cioccolato a circa 45 gradi, farlo raffreddare fino ad arrivare a circa 29 gradi, poi riscaldarlo, arrivare a 31 gradi. Ecco, c'è un motivo chimico per cui c'è questo qua. Quindi bisogna avere assolutamente un termometro, perché sbagliare di 2 gradi vuol dire che poi il nostro cioccolato, con cui vogliamo ricoprire delle ciliegie o delle scorze d'arancia, non sarà bello lucido, non sarà fondente. Viene brutto. Esatto. Allora, dunque, ci sono un sacco di ricette all'interno del libro. Io volevo parlare del croccante, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Quindi io ricordo sicuramente il nome del libro, La scienza della pasticceria. Oh, non abbiamo detto all'inizio, perché Dario è un habitué, insomma, della nostra trasmissione, però ovviamente tu sei chimico, ecco, questo non l'abbiamo detto, all'Università dell'Insubria, e anche un collega, perché scrivi sulle pagine delle scienze, un blogger seguitissimo di cucina scientifica anche in rete. Quindi vabbè, insomma, Dario, scusa se non ti abbiamo presentato correttamente. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo ricevuto due domande abbastanza diverse una dall'altra, di carattere alimentare, quindi dobbiamo assolutamente approfittare della preparazione di Dario per rispondere. Allora, facciamo la prima. Sì, sì. Allora, ci scrive Gabri21, che non si firma, ma insomma si chiamerà Gabriele o Gabriella, che ci dice: la domanda è sull'uovo. Allora, in campagna mi è capitato di mangiare un uovo di gallina completamente privo di tuorlo, e quindi con solo albume, di forma molto ridotta, piatta e piuttosto sferica, non ovale. Com'è possibile? Dario, tocca a te. Ma allora, diciamo che capitano una serie, capitano molto raramente ovviamente, ma capitano ogni tanto una serie di difetti nel processo di costruzione, chiamiamo così, dell'uovo, per cui può capitare che l'uovo risulti incompleto. La mancanza del tuorlo è effettivamente molto più rara di altri tipi, diciamo, di difetti che probabilmente qualcuno ha riscontrato. Un difetto che si ritrova ogni tanto è quello di un uovo con due tuorli, non so se a voi è mai capitato, capita raramente, però capita. Quindi il processo biologico di produzione dell'uovo, che richiede una serie di passaggi fino ad arrivare alla costruzione del guscio, anche ancora molle, poi all'espulsione, può a volte, per vari motivi magari che non sono prevedibili, magari c'è la gallina vaiola che è ammalata, oppure ci sono degli errori nel processo, non innescati dalle sostanze chimiche, da ormoni, cose così, durante il processo in modo corretto, per cui fa sì che ogni tanto galline che producono uova normali tutto l'anno, ogni tanto il processo si inceppi un po'. Non è chiaramente prevedibile. E così, insomma, è un difetto, non c'è nulla da aver paura. L'albume è un la preoccupazione, preoccupazione poteva essere che fossero derivati dagli ormoni dell'alimentazione magari errata che veniva data, insomma, alla gallina. No, sono difetti che ogni tanto capitano, ecco, quindi non c'è da aver paura. Senti, invece, un'altra nostra ascoltatrice, Emanuela, si interroga sulla cipolla, nel senso che dice è conosciuta per avere grandi proprietà antibiotiche, antinfiammatorie e via dicendo, insomma qualcosa che fa bene, battericida, mentre invece altre voci dicono che è esattamente il contrario, cioè che la cipolla è una specie di raccoglitore, attrattore di batteri. E com'è che sta questa cosa? Ma no, allora, c'è una leggenda urbana che mi fa piacere che mi abbiate fatto questa domanda, perché me la chiedono varie volte anche sul blog o in giro quando faccio conferenze. C'è una leggenda urbana che viene continuamente, appunto, ridiffusa, che dice che le cipolle tagliate attirano i batteri. Addirittura c'è qualcuno che dice che vengono messe delle cipolle tagliate a metà, delle cipolle di fianco dei malati per attirare i batteri, ecco, i virus. In realtà questo è completamente falso. È una delle tantissime leggende urbane che girano sul web. Ci sono dei siti che addirittura le classificano, queste leggende urbane, e questo non è assolutamente vero. Quindi come aglio e altre erbe o altri odori, altre spezie che si usano in cucina, hanno delle blande proprietà diciamo antibatteriche, antisettiche, non hanno tantissime. Funzionano contro i vampiri. Altri magari altre spezie ne hanno di più, però diciamo che non c'è assolutamente nessun tipo di pericolo. L'unica fa un po' il paio con la leggenda analoga che dice che le patate, una volta cotte, debbano essere consumate immediatamente, perché altrimenti anche lì diventano tossiche. Anche questa è, diciamo, una leggenda senza nessun fondamento. Certo, poi se le teniamo lì un mese, vabbè, magari un problema di muffa ce l'hanno. La cipolla aperta nel frigo fa puzza, peggiora le cose. No, però non fa male, ma non è neanche vero che ha tutte queste proprietà salutari. No. Insomma, no, la mangiamo e buonanotte. Sì, diciamo, molti di questi prodotti vegetali che hanno delle proprietà antibatteriche vanno mangiati crudi, ecco, però non so quanti si mangiano senza cibo, come l'aglio, è vero che ha delle proprietà, però diciamo, mangiati crudi hanno un effetto superiore, però non tanti si mangiano l'aglio crudo. Ci sono delle ricadute sociali. Ecco, diciamo di sì. Grazie davvero Dario, buone feste a te, ci sentiamo nel nuovo anno, perché sicuramente qualche altra domandina sull'alimentazione ci arriva. Sì, ne arrivano sempre. Bene. Ciao Dario, buona festa a voi, presto, ciao, arrivederci. Ciao a tutti, ciao, buona festa. Ma c'è un'altra domanda che ci arriva, Chiara, da? Ci arriva da Giulia, da Belluno, che chiede quando è nata la prima aspirapolvere? E quindi noi siamo andati dal massimo esperto degli elettrodomestici. Vittorio Marchis, buonasera Marchis. Buonasera a voi, eccomi qua. Lei insegna storia della tecnologia e storia della cultura materiale al Politecnico di Torino, ma è anche veramente uno studioso di strumenti di ogni genere, soprattutto quelli casalinghi. Ha appena scritto Le cose di casa, edito da Codice, e noi volevamo parlare di questo suo bel libro, ma c'è stata una come dire, confluenza, coincidenza totale, e in un capitolo, sono tanti capitoli, molto bello da leggere perché si legge rapidamente, ci sono mille cose, ma ce n'è uno dedicato all'aspirapolvere. Oh, l'ultima volta che abbiamo visto il professor Marchis, Federico stava facendo un'autopsia ad una macchina da scrivere, questo sì, lo ricordiamo. L'ha smontata tutta in un'ora e mezza, non era rimasto più niente. Allora Marchis, ci dica, quando nasce la prima aspirapolvere? Allora, dobbiamo dire che l'aspirapolvere ha anche degli antenati, ecco, prima di arrivare all'aspirapolvere macchina, quella con le spazzole che girano, eccetera, eccetera. L'antenato dell'aspirapolvere è il tappeto e il battitappeto. Certo. Perché è il tappeto che cattura la polvere. Poi noi oggi abbiamo inventato gli stracci aspirapolvere, quelli cattura polvere, eccetera, eccetera, ma la funzione è sempre la stessa, solo che una volta il tappeto, quando aveva raccolto tanta polvere, lo si sbatteva e non lo si buttava via. Gli stracci invece oggi cattura polvere, si prendono e si buttano, perché siamo nella società dei consumi. Ma adesso, a parte queste battute, le prime macchine aspirapolvere sono dei primi battitappeto, perché l'idea è quella di come battere i tappeti, non più col battitappeto a mano, faticosissimo. Sì, perché infatti io ho in mente quel bastone con quella specie, sì, quella specie di racchetta. Ecco, bravissimo. Diciamo, una specie di racchetta fatta di vimini che poi si usava andando all'aperto, stendendo i tappeti o sui balconi o sulle corde tese nel cortile, e via, a forza di muscoli, si andava a rimuovere la polvere lanciandola di nuovo nell'aria. Invece i primi battitappeto aspirapolvere nascono a metà dell'Ottocento. A metà dell'Ottocento ci sono alcune società che sono le carpet cleaning, cioè i pulisci tappeto, che con queste macchine molto strane, che sono tutte meccaniche, non c'è ancora l'elettricità, quindi non funzionano con motore elettrico, ma sono spinte a mano e le ruote, andando avanti, non soltanto fanno girare delle spazzole che smuovono la polvere, ma queste ruote mettono anche in moto dei soffietti, i quali aspirano la polvere che viene sollevata dalle spazzole. Questo avviene, ci sono tante invenzioni, ce ne sono molte, c'è Truman di St. Louis del Missouri, ce ne sono tanti. E questa idea delle società che vanno a pulire i tappeti sollevando le persone dal faticoso lavoro di andare a sbattere i tappeti con il battitappeto, si diffondono soprattutto in America e in Inghilterra. Marchis, c'è una bellissima immagine del suo libro con una specie di carrozza, quindi con un cavallo, esatto. Con dei cavi, insomma, dei tubi. Questo è il secondo stadio. Il secondo stadio, in questo, all'interno di questo carro c'è di solito o un poveretto che gira a manovella un mantice, oppure nel caso migliore c'è una piccola macchina a vapore che aziona un mantice aspiratore, e poi questa società con questi lunghi tubi entra nelle case e svolge l'azione dell'aspirapolvere. Cioè uno la chiamava, la noleggiava, la chiamava, per un'ora. Certo, noleggiava per una mezza mattina, venite a pulirci. Da vedersi sembra un po' come le società degli spurghi di adesso, cioè c'è il carro fuori. Esatto, invece di spurgare qualcos'altro, benissimo, si spurgavano i tappeti. Chiarissimo. E allora da quando poi si passa invece all'elettrodomestico domestico? L'elettrodomestico c'è ancora un piccolo passaggio. Nel 1905-6 la General Electric fa un bel filmato muto, che si può trovare anche in internet, di Home Electrical. Basta scrivere questo su Google e si trova. Home Electrical, in cui si inventa la casa elettrica, dove tutto è elettrico. Anche in questa casa c'è anche un aspirapolvere, ma non c'è ancora l'aspirapolvere mobile. In realtà che cos'è? C'è una pompa aspirante posta in cantina. Nei muri della casa passano dei condotti che poi arrivano delle bocchette come le nostre prese elettriche. Quando uno vuole aspirare, toglie il tappo da una di queste prese, ci infila il tubo, quindi molto comodo, senza avere tra i piedi il filo, la macchina, che poi geniale. E quindi c'è un impianto domestico di aspirazione, quando uno vuole innesta il tubo con la sua bocchetta, con la sua spazzola. Scusi Maxis, ma io ho visto recentemente in una casa molto moderna questo sistema, sta un po' tornando certo, di moda. Certo, sta tornando di moda, tutti ci sono i costi e i ricorsi storici anche negli elettrodomestici. Diciamo che siamo intorno al 1907-1908 che invece veramente l'impulso sull'onda lunga della diffusione dell'elettricità, ricordiamoci che le prime centrali sono degli anni 80-90 dell'Ottocento, arriva con un nome che tutti conosciamo, che è Hoover, che comincia sono loro i primi industriali simili ad oggi, esatto, ce ne sono tante, tantissime invenzioni, però dall'invenzione all'innovazione al prodotto commerciale il passo è lungo, bisogna avere alle spalle un'importante industria, una rete commerciale e tutto il resto. Ecco, Hoover fa la differenza, okay. È colui che diffonde questo strumento che poi comincia a arrivare nelle pubblicità delle riviste e tante storie che si potrebbero raccontare intorno agli aspirapolveri. Sì, va bene, invece noi fermiamoci qui perché noi vogliamo approfittare della sua presenza e del libro che ha una serie di altre storie magnifiche. Ci dica rapidamente che cos'è questo incubo moderno del grimaldello bulgaro. Le chiavi a doppia mappa sono quelle che hanno i denti sia da una parte sia dall'altra, quelle delle serrature, delle porte di sicurezza, eccetera, eccetera. In realtà possono essere violate con questo grimaldello bulgaro che pare sia stato inventato dai servizi segreti del KGB e dell'Est Europa, per ovviamente violare cassaforti, violare stanze segrete della politica o dell'arte militare. Invece questo poi, come tutte le cose, trova la diffusione anche presso i malintenzionati, non che i primi fossero ben intenzionati. In realtà è un doppio pettine che, introducendolo nella serratura e con delle vibrazioni alternate, cioè muovendo alternativamente un po' a destra, un po' a sinistra, fa sì che questi dentini si adattino all'interno della serratura fino a riprendere la forma della chiave, prima a destra e poi a sinistra. Per certo, violare. Questo strumento non lo si trova in ferramenta. Per fortuna. Già adesso stanno sorgendo le contromisure da parte ovviamente dei costruttori, dei venditori di porte blindate per evitare questa intrusione di malintenzionati. Il suo libro, professore, è pieno di aneddoti. Un aneddoto carino che secondo me vale la pena raccontare riguarda una macchina straordinaria che è la macchina da cucire. Che però, come dire, questo aneddoto ci ricorda come il moralismo riesca a inventarsi delle realtà. No? Si diceva per esempio che monta delle realtà assurde. In realtà alcuni medici parigini, probabilmente sull'onda lunga delle rivolte dei sarti che vedevano a metà dell'Ottocento con l'introduzione della macchina da cucire, la perdita della loro professionalità, ovviamente chi cuciva a mano era spiazzato dalla macchina da cucire, perché la produttività con questa macchina aumentava di 10 se non di 100 volte. E questi medici in un consesso, con un lavoro scientifico che poi ritrovò spazio anche sull'annuario scientifico industriale italiano, quindi su una pubblicazione non quindi i dati c'erano, però professore ci credevano fino a un certo punto, dicevano che quelle macchine a cucire, quelle industriali, avevano il doppio pedale, e questo doppio pedale, producendo lo sfregamento delle cosce, sto citando c'è scritto così, poteva portare nelle giovani sartine che usavano questa macchina un eccitamento sessuale. E questo era intollerabile. E questo era ovviamente intollerabile. L'ultima nota che faceva questo che riportava questo scritto scientifico era questa, che ci fa altrettanto sorridere: questo disagio non è stato riscontrato quando la macchina da cucire venga fatta funzionare da dei maschi e non da delle sarte. Vabbè, insomma. Questo ci fa ancora sorridere, però dobbiamo avere così apertura di orizzonti, Se pensiamo invece che qualche anno prima, siamo negli anni 50, la stessa Civiltà Cattolica, un giornale certamente non progressista, il giornale dei Gesuiti, un giornale cattolico italiano, riportava l'invenzione della macchina da cucire come una grossa innovazione nel mondo del lavoro. Ecco, vediamo i contrattare di queste due informazioni che ci fanno sorridere, ma ci fanno anche pensare che poi il progresso non è soltanto cosa negativa. Abbiamo pochissimi secondi in conclusione per dire qualcosa sul mezzo attraverso il quale gli ascoltatori ci stanno ascoltando, la radio, questo mezzo straordinario. Due parole, Marconi non pensava la radio broadcast, la radio come stiamo facendola funzionare oggi, che la sentono tutti. Lui pensava che la radio potesse sostituire il telegrafo, tant'è vero che si chiamava telegrafo senza fili. In realtà la diffusione delle informazioni avvenne solo più tardi, parecchi anni più tardi dopo l'invenzione. Per tutto i primi due decenni del Novecento la radio fu impiegata soprattutto per scopo di comunicazione, diciamo, antinfortunistica, cioè per lanciare gli SOS dalle navi, ma anche e soprattutto per scopi militari. Fu poi solo alla fine degli anni 20, diciamo da metà degli anni 20, che si capì che questo mezzo poteva servire, proprio perché era sentito da tutti, poteva servire per lanciare nuovi messaggi. E soprattutto messaggi di, virgolette, propaganda, propaganda commerciale, propaganda religiosa. Anche nascono nei primi anni molte radio, soprattutto negli Stati Uniti e nel Canada, che con usano il mezzo per diffondere la novella. E poi c'è anche tutto il discorso dell'informazione politica, perché sappiamo che per esempio in Italia il fascismo ha galoppato sopra la radio. Grazie Vittorio Marchis, ricordo il suo libro Le cose di casa, edito da Codice. Buone feste, professore. Grazie a lei e buona festa anche a voi. Noi abbiamo adesso la necessità di augurarvi un buonissimo fine anno e un buonissimo inizio anno. Insomma, abbiamo in serbo qualche sorpresa per il 2015, staremo a vedere. State con noi. Buono champagne. Ciao a tutti.